Punto 30. I carabinieri del ROS hanno arrestato ieri notte a Roma 18 persone. Tenevano le fila di un traffico di droga che dalle basi di Scampia a Napoli arrivava nelle strade della periferia est della capitale. A guidare la banda il boss Michele Senese. Da Fragola si era trasferito a Via dei Consoli, al Tuscolano, in un villino che tutti nel quartiere credevano disabitato. Invece era munito di telecamere e sofisticati sistemi d'allarme. Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio regionale su legalità e sicurezza, nel Lazio sono presenti 60 cosche malavitose. In testa l'Andrangheta con 25 cosche. A seguire Camorra, Cosa Nostra e Sacra Corona Unita. Si infiltrano nello smaltimento di rifiuti delle strutture alberghiere, nei mercati generali di frutta e verdura, ma anche negli appalti edilizi e nelle attività del porto di Civitavecchia. Ma allora stiamo vincendo o perdendo la sfida contro la malavita nella nostra regione? Lo abbiamo chiesto a Don Luigi Ciotti, che da anni si batte in Italia contro tutte le mafie. Beh, la situazione è certamente difficile e complessa, ho ottenuti ottimi risultati, però non deve venire meno l'attenzione, l'impegno, la coerenza, perché è vero che si sono beccati alcuni grandi boss, ma la situazione del gioco criminale, che ha cambiato anche strategie, ha attuato nuovi mercati, ha creato nuove alleanze, c'è ed è forte. Come fa allora la mafia a contaminare la nostra regione? Quali sono i tentacoli che questa piovra estende nel nostro territorio? C'è una presenza non indifferente, la mafia trasversale, la mafia ricicla, la mafia acquista. Mafia vuol dire traffico della droga, sfruttamento della prostituzione, tratta, vuol dire lavoro nero, vuol dire forme di caporalato. Non è un caso che in queste città ci sono molti beni confiscati ai mafiosi. Magari in alcune regioni d'Italia la mafia non ha messo le radici, perché in quei territori hanno saputo reagire e avere gli anticorpi. Però questo non vuol dire che non c'è stata e non c'è una presenza criminale mafiosa. Punto 30, Massimo Camussi. Punto 30, il radiogiornale della capitale.